sai che c'è? Mi sento come se qualcosa mancasse, forse so cos'è. Sto meglio solo quando accendo le casse. Lo so di 105, lo so di 105. Dove vai, quanto con chi ci fai, la frequenza la sai, alza il volume più che mai. Marco Mazzoli, come stai? Vai, perché a Miami non porti anche noi? Cerco una tipa che dica hold it tonight, come a Bibi dice spy, ma trovo tamarre come Paolo Noi. E gli asciugoni come Alizei, quando l'incontro dico oh no. Se sei un cazzaro come Luca Alba, ti confessi a macho padre Maronno. Lo sai che Ivo è più brutto dal vivo, e qualcosa non funziona dentro Marco Dona. Fa freddo per le freddure di Herbert, piove dei nuvoloni dello svapo di Wender.